Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Ci sono casi in cui la fama, il carisma, la forza delle idee di un artista superano gli abituali confini e trasformano la star in una sorta di guru, di capopopolo in grado di trascinare le folle e le masse e di illuminarle non solo con le proprie canzoni, ma anche con una semplice parola o con qualche dichiarazione fuori dal coro. Questi artisti finiscono per essere i dispensatori di una vera e propria filosofia di vita, quasi una religione per milioni di fan. Per quanto riguarda la musica italiana, l'esempio più importante di questa categoria di icone è certamente Vasco Rossi. Vasco Rossi è certamente oggi la più importante rockstar italiana. O la si ama o la si detesta, ma è un dato di fatto che è fra i pochi rocker italiani in grado di riempire sempre stadi e palazzetti di qualsiasi dimensione, di folla pronta a rendergli incondizionatamente un tributo d'amore. Ogni sua dichiarazione è in grado di far rumore, di scandalizzare, di creare dibattiti e polveroni. Anche il suo viaggio, però, è costellato di incroci e di incontri determinanti. Un viaggio straordinario che lo ha portato a trasformarsi dal signor Rossi di Zocca al venerato comandante Blasco. La carriera di Vasco Rossi è talmente densa e avventurosa che gli intrecci con altre vite e carriere abbondano. Tuttavia, ce ne sono alcuni che risultano di imprescindibile importanza. Per incontrare il primo magnifico destino che incide sulla carriera di Vasco, bisogna risalire proprio agli albori della sua carriera e del suo percorso di vita, proprio tra i monti della sua Zocca. Voglio trovare un senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. 759 metri sul livello del mare, poco più di 4.000 abitanti, è una radicata cultura antifascista che l'ha resa un centro importante della lotta partigiana. Qui a Zocca nasce il 7 febbraio 1952 Vasco Rossi. La sua famiglia è composta da gente semplice di montagna. Il padre è autotrasportatore, la madre si occupa della casa. Sono figlio di contadini e di gente che ha sempre avuto un tipo di lavoro libero in un certo senso, che faceva quando decideva lui, anche camionista addirittura come mio padre. Infatti il lavoro che avrei fatto probabilmente se non riuscivo a fare qualcos'altro era camionista. Nell'infanzia e nell'adolescenza di Vasco, vissuta nel caldo tepore della provincia, troviamo gli ingredienti che andranno a formarne il carattere e la professionalità. In primo luogo, in questa famiglia semplice non manca certo l'attenzione alla musica. La passione per il canto viene infatti trasmessa a Vasco dalla madre Novella, che lo iscrive a un corso di canto e lo fa partecipare con grande successo all'Usignolo d'Oro, una kermesse musicale modenese nata sull'onda del successo dello Zecchino d'Oro. In seconda battuta, nel cuore di quella dimensione di provincia, Vasco Rossi forgia il suo carattere ribelle e trasgressivo. Prima l'esperienza nel collegio salesiano di San Giuseppe a Modena, che si rivela traumatica per la rigida severità degli educatori. Vasco scappa ben due volte, rifugiandosi a casa di una zia a Bologna. Così, in seguito alla seconda fuga, il padre lo iscrive all'Istituto Tecnico Commerciale Tanari, del capoluogo emiliano, dove consegue finalmente il diploma. La sua irrequietezza verso le istituzioni prosegue anche durante gli anni universitari, con i cambi di facoltà da economia a pedagogia e l'abbandono a solo 8 esami dalla laurea. Questi elementi peculiari della sua personalità trovano sfogo e piena realizzazione nella celebre avventura di Punto Radio, una radio libera che darà a Vasco l'incontro con il nostro primo magnifico destino. Ah, non ci posso credere. Sei nervosa e non sai perché. Non è mica facile. Era più o meno da metà degli anni 60 che nei giovani di tutta Europa stava montando la voglia di radio nuove e svecchiate, fonti di intrattenimento, musica e anche informazione libera. Per i ragazzi italiani, una grande opportunità era rappresentata da due emittenti che sfuggivano al monopolio trasmettendo in lingua italiana da territori stranieri, con una programmazione tutta rivolta ai giovani e alla musica, con un linguaggio dinamico e nuovo. La prima è Radio Monte Carlo, ricevibile solo sulla costa tirrenica del nostro paese. La seconda, Radio Capodistria, udibile solo nel nord dell'Adriatico. In Italia, dopo la prima sentenza di apertura del monopolio della Corte di Cassazione datata a 1974, la prima emittente in assoluto a iniziare le trasmissioni è Radio Parma, il 1 gennaio del 1975, mettendo in funzione un trasmettitore di potenza relativamente limitata, 22 watt, ma sufficiente per coprire la maggior parte della città emiliana. Seguono a ruota Radio Milano International e Radio Roma. Ispirati dalla neonata Radio Milano International, Vasco Rossi, insieme al gruppo di amici con cui era solito trovarsi al bar del paese a parlare di musica, di rock, di cantanti, decide di dare vita a una piccola radio privata con sede a Zocca. La chiamano Punto Radio, come un piccolo circolo che avevano aperto sempre insieme poco prima per ospitare feste ed eventi che si chiamava Punto Club. Vasco e i suoi amici mettono 250.000 lire a testa e comprano un trasmettitore da 10 watt. Il 21 settembre 1975, Punto Radio comincia le sue trasmissioni. La radio trasmette prevalentemente musica, scelta da disc jockey tanto improvvisati quanto competenti, professionali ed efficaci. A inframmezzare le canzoni ci sono spazi e programmi parlati nei quali vengono trattati gli argomenti più vari. Il gruppo della radio, inizialmente costituito da un manipolo di amici, si allarga. E con esso si allarga anche il pubblico, perché Vasco e soci sono bravissimi nell'attività promozionale. Organizzano feste, eventi, concerti, serate di dance che trascinano nuovi ascoltatori sulle frequenze di Punto Radio. In questo modo arrivano anche le prime sponsorizzazioni, le prime inserzioni pubblicitarie e i primi soldi. Punto Radio è ovviamente diventato un punto di riferimento notevole che ascoltavano in parecchi, perché non si era mai sentita della musica come, non so, i Rolling Stone, Bruce Springsteen, capito, la Rai. Per gli altri era un gioco e basta, non si rendeva conto della potenza che poteva avere. L'unico che ci vedeva dentro veramente la possibilità di un lavoro, di uscire da Zocca, ero io. Punto Radio va a gonfie vele e Vasco comincia ad assumere un'identità precisa dal punto di vista lavorativo. Diventa a tutti gli effetti un disc jockey di punta della radio e, come tale, inizia anche a guadagnare bene con le serate nei locali della zona. I ripetitori di Punto Radio diffondono il segnale in una zona sempre più ampia e alcuni dichiarano che oramai la radio si riesce a sentire anche a Milano. Punto Radio diventa il riferimento di centinaia e centinaia di giovani del nord Italia che si appassionano sempre di più alla programmazione vivace e innovativa dell'emittente modenese. Tanti sono coloro che vanno a bussare alle porte della radio in cerca di un provino o di un passaggio per i propri pezzi. Tra questi c'è il primo magnifico destino di oggi, colui che avrà un peso determinante nello spostamento della carriera di Vasco Rossi dal ruolo di disc jockey a quello di rock star. Si tratta del futuro leader degli Stadio, Gaetano Curreri. Coi dadi si stan giocando le stelle, con gli spot sono bravi a venderci sorrisi. Gaetano fa amicizia immediatamente con Vasco. Entrambi hanno entusiasmo e passione da vendere e la voglia di fare qualcosa di nuovo. Vedono nella radio lo strumento perfetto per poter comunicare al mondo le proprie idee. Sono in sintonia anche in fatto di gusti musicali. L'intesa tra i due spinge Gaetano Curreri a entrare a far parte della squadra di Punto Radio. E recite all'aperto, le corse in bici sotto i cieli blu, proprio come quando c'eri tu,

L'album di esordio si intitola Non siamo mica gli americani. Il successo del disco non è eclatante, ma è l'alba del mito di Vasco Rossi. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi, i tuoi pensieri. I magnifici destini. La carriera di Vasco Rossi è stata ed è tuttora un'altalena di emozioni forti, estreme, intense, vissute tutte fino all'ultimo respiro. Davvero una vita al massimo. Questa condotta di vita molto rock ha dato a Vasco una grande visibilità, spingendolo sempre in prima pagina anche oltre le sue reali intenzioni. La dimensione intima della vita di provincia e di montagna di Zocca ha presto lasciato il posto alla luce dei riflettori, costantemente puntati addosso al rocker modenese. Anche e soprattutto per questo motivo, gli incroci, le sovrapposizioni, gli scontri e gli scambi con altre star della musica italiana e con altri cantautori sono stati frequenti e continui, tanto che è difficile indicare con precisione questo o quell'artista come magnifico destino che ha sostanziato la carriera di Vasco. Quelli in qualche modo più originali possono essere rintracciati nel rapporto con alcuni cantautori italiani estremamente impegnati sul piano sociale e civile, che per stile e modo di porsi sembrano apparentemente lontanissimi da Vasco. Prendiamo ad esempio la figura di Fabrizio De André, forse il più celebre fra i grandi cantautori della musica leggera italiana. Di primo acchito Vasco e De André potrebbero sembrare agli antipodi, distanti. L'incontro più celebre e importante per la carriera di Vasco avviene in circostanze molto particolari. È il 1984. Vasco ha raggiunto il grande successo e la fama con l'album va bene così, una raccolta di brani live. Il 20 aprile di quell'anno Rossi viene fermato dalla polizia in una discoteca di Bologna e arrestato. Poco dopo consegna 26 grammi di cocaina ai carabinieri. L'imputazione è detenzione di cocaina e spaccio non a scopo di lucro. Ieri sera il noto cantante è stato interrogato nel carcere pesarese di Rocca Costanza. Al termine il magistrato inquirente, il dottor D'Aprile, ha disposto che fosse tolto dall'isolamento. A Vasco Rossi il magistrato contesta la detenzione di non modiche quantità di cocaina e la cessione di modiche quantità di droga a titolo gratuito. Sono colpevole di aver in effetti detenuto, credevo che comunque il fatto di comprarla, capito? Cioè di averla, cioè di comprarla e di usarla non fosse punita. Infatti cioè, la legge non è precisa su questi termini qua, dice che l'uso, capito, per uso personale, modica quantità, non è punibile, però alla fine poi c'è l'incastro che quando la vai a comprare, capisci, la devi comprare, non puoi andare a comprare un grammo alla volta. Ne sono uscito perché è stato molto importante anche l'esperienza brutale, capito, della galera, che in effetti mi ha un attimo, capito, messo di fronte alla realtà, sono tornato con i piedi per terra, per cui, e poi è stato quello lì, io ho cercato di fare leva su quell'esperienza lì che mi ha un po' sconvolto, capito, per in effetti togliermi un vizio che in fondo mi pesava molto perché mi costava un sacco di soldi. Vasco trascorre 5 giorni in isolamento e un totale di 22 giorni in carcere durante i quali riesce a disintossicarsi. L'unico personaggio della scena musicale italiana che si espone pubblicamente e dà sostegno al cantante dietro le sbarre è Fabrizio De André, che gli fa visita insieme alla moglie Dori Ghezzi. Tra i due il rapporto rimarrà sempre molto solido, con scambio di omaggi e di cover durante le rispettive tournée. Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposto valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Il cantautore italiano con cui Vasco Rossi però ha sempre esplicitato il debito artistico più importante è Francesco De Gregori. Generale dietro la collina, ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. È il 1995. Vasco Rossi è ormai la grande star degli stadi. A San Siro va in scena l'evento rock Sotto l'assedio. Due serate con vari gruppi e artisti ospiti di diverse nazionalità. Tema di fondo, l'opposizione alla guerra in Jugoslavia. Vasco apre il suo show con il pezzo che considera il canto pacifista per antonomasia, la cover di Generale di De Gregori, riarrangiata alla sua maniera. Generale dietro una collina, ci sta la notte buia ed assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. È un inizio di concerto strepitoso, di grandissima forza, di straordinario impatto. Non è esagerato dire che una parte del successo di quella straordinaria coppia di concerti si debba proprio a questa esecuzione intensa e poderosa. In quanto agli scambi di cover, De Gregori aveva già omaggiato Vasco nel 1993. Nel suo album Il bandito e il campione c'è infatti una cover di Vita spericolata. Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte e fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto così. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di qua. Avrei desiderato scrivere io Vita spericolata, ha spesso dichiarato De Gregori. I due si sono incontrati varie volte. Vasco si rivolge a De Gregori chiamandolo maestro e definendolo l'unico vero cantautore di sinistra che l'Italia abbia. De Gregori non ha mai nascosto l'ammirazione per il rocker di Zocca. Discorso diverso è quello che riguarda il rapporto tra Vasco e un altro cantautore che, a differenza dei mostri sacri che abbiamo citato, occupa una posizione di riferimento nel panorama rock italiano. Un coinquilino di Vasco, insomma. Anzi, il coinquilino per eccellenza. Luciano Ligabue. Tra i due c'è sempre stata una rivalità nemmeno troppo celata, non si sa quanto autentica o quanto costruita d'arte, che ha spesso occupato le pagine dei giornali. I due non si sarebbero mai particolarmente amati, ma l'inimicizia sarebbe esplosa nel 1999, subito dopo la morte per overdose del chitarrista di Vasco, Massimo Riva, che accompagnava Vasco sin dall'inizio della carriera e con il quale aveva diviso l'ascesa, la fama, gli eccessi. Ligabue, all'indomani della morte del chitarrista, rilascia un'intervista in cui commenta così l'accaduto. Per i musicisti rock c'è ancora oggi l'alibi dello scotto da pagare per fare musica. Perciò, secondo il galateo della perfetta rockstar, io che non mi drogo sarei fuori target. Vasco non gradisce questa dichiarazione e non le manda a dire, producendosi in un'aspra controdichiarazione che suona più o meno così. È morto un amico e invece del silenzio c'è chi, per accrescere la propria credibilità, ha scelto di speculare lanciando anzitempo inutili messaggi moralizzatori. Inutile il tentativo del Liga di rimediare. Chiedo scusa a Vasco e a chi sta vivendo il lutto per la scomparsa di Massimo Riva. Non sono stato sufficiente scafato da immaginare che qualcuno potesse speculare sulla morte di un musicista imbastendo polemiche di bassa lega. Il guanto della sfida, in ogni modo, è lanciato. Thank you. Dal 1999 in avanti è stato un susseguirsi di dichiarazioni, punzecchiature, piccole provocazioni. I picchi più alti sono stati raggiunti nel 2011, quando sul profilo Facebook di Vasco appare il seguente messaggio. Caro Liga, quando avrai scritto anche tu quasi 200 canzoni e avrai pubblicato 16 album inediti, potrai essere messo sul mio stesso piano. Devi mangiare ancora un po' di polenta prima di poterti confrontare con me. L'ufficio stampa di Vasco si affretta a smentire la paternità di quel post, ma il rocker rincara la dose poco dopo. Ligabue? Penso che sia un bicchiere di talento in un mare di presunzione. Al di là di questo fuoco incrociato di scaramucce, rimane vivo il sogno di molti, vederli insieme un giorno su un palco. Ultimamente, poco a poco, si stanno creando i presupposti giusti. Vasco, infatti, ha prima rilasciato una dichiarazione distensiva. Rinnovo stima per Ligabue. Non esiste alcuna antipatia, odio o rivalità tra me e lui. La nostra è tutta una finta commedia. Lui è un bravo artista, uno dei migliori della sua generazione. Io faccio parte di un'altra. Abbiamo poco in comune, se non il linguaggio del rock e l'amore per le chitarre. Se siete quelli comodi, che state bene voi, se gli altri vivono per niente, perché in punti siete voi, vedrai che questo posto, is beautiful. Poi, in seguito alle polemiche successive alla mancata partecipazione di Vasco al concerto per i terremotati dell'Emilia e in seguito all'invito di Ligabue a partecipare al nuovo grande concerto di beneficenza che ha organizzato a Campovolo per stasera, Vasco ha risposto: caro giovane Liga, non prendo impegni a lungo termine, ma tu tieni pronta una chitarra. Vasco Rossi e Sanremo. Un accostamento apparentemente azzardato, ma in un certo senso quasi obbligato. Il re del rock italiano da un lato, la più importante kermesse musicale del nostro paese dall'altro. Vado al massimo, vado con fedele. Nel 1982 Vasco partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Vado al massimo. La performance del rocker di quell'anno fa scalpore. Vasco abbandona il palco con il microfono nella tasca della giacca. Collegato col filo all'amplificatore, il microfono cade, creando panico tra il pubblico in sala e tra i conduttori dello show TV. In aprile dello stesso anno esce l'album omonimo, che resterà in classifica per 16 settimane. L'anno seguente Vasco si presenta di nuovo a Sanremo con Vita spericolata e crea un caso ancora più increscioso. La canzone, destinata a diventare uno dei classici della musica italiana, raggiungendo lo stesso anno il sesto posto nella classifica dei 45 giri, si classifica al penultimo posto nella competizione del festival. All'attacco dell'ultimo ritornello, Vasco scardina il festival dall'interno, saluta e abbandona il palco, lasciando il playback a terminare la canzone. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Ci sono poi numerosi casi in cui il rocker di Zocca ha messo il suo talento compositivo a disposizione di altri musicisti e di altre voci. Spesso in veste di autore si è preso a Sanremo diverse importanti rivincite. Anzi, facciamole i complimenti, classificata seconda nella classifica di ieri, Irene Grandi! Uno degli esempi più emblematici di talento lanciato da Rossi è Irene Grandi, cantautrice fiorentina che nel 2000 si presenta a Sanremo con un brano rock composto proprio da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Ma lasciati andare, segui il tuo cuore arrivando alle stelle, prova a prendere quelle, nessuna è più bella di me. In realtà, insomma, a me è piaciuto subito il suo testo perché me lo fece sentire un pomeriggio in uno stereo schifosissimo, mi ricordo, che la musica si sentiva un po' così, però già le parole poi spiegate da lui con l'entusiasmo e l'enfasi che gli dava il fatto che ci credeva molto in questo progetto mi conquistarono immediatamente e quindi decisi di festeggiare con Vasco, mi ricordo già il primo giorno. Appena avevo sentito la canzone si aprì una bottiglia di champagne, insomma. Poco prima di quell'esibizione sanremese, Irene Grandi aveva pubblicato Verde, Rosso e Blu, il suo quarto album, che vede la luce nel 1999. Quando l'anno dopo, in gara al Festival di Sanremo, Irene si aggiudica il secondo posto con la canzone scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri degli Stadio, il pezzo ha un tale successo che l'album Verde, Rosso e Blu viene ripubblicato con l'aggiunta di La tua ragazza sempre. È una sorta di rilancio per la Grandi, che da quel momento viene invitata agli eventi live di maggiore prestigio, dal Pavarotti & Friends al Montreux Jazz Festival. Un bellissimo rapporto, devo dire, perché nato così per la musica e poi si è poi trasformata anche in un'amicizia. A me piace seguire le sue prodezze, perché Vasco, insomma, ci stupisce sempre con la sua musica, con anche le sue attività extra musica. Irene Grandi aveva fatto il suo esordio ufficiale nel 1994, 25enne, con un album contenente 8 brani, tra cui il singolo Fuori, presentato quell'anno a Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Che una sera sei fuori e la vita va, un'avventura giù in città. Il successo arriva però con il secondo album, In vacanza da una vita, che contiene brani che diventano molto popolari come la hit Boom Boom. Con i suoi primi lavori, però, Irene sembra inserirsi nel solco di un percorso pop piuttosto leggero e non particolarmente originale. Gli orizzonti del suo pubblico si ampliano quando la Grandi decide di adottare una svolta più rock e aggressiva, una svolta a cui contribuisce in maniera determinante Vasco Rossi. Nel quarto album di Irene, quello più rock, Verde, Rosso e Blu, c'è un pezzo che si intitola Eccezionale. Stando a quel che si dice, proprio ascoltando questo pezzo, Vasco Rossi intuisce le potenzialità di Irene e decide di scrivere per lei un pezzo. Nasce da qui la composizione di Vasco e di Gaetano Curreri intitolata La mia ragazza sempre, che Irene porterà a Sanremo. Mi ha conosciuto attraverso la mia musica e le mie performance dal vivo e anche in televisione, così, e così naturalmente di getto gli è venuta questa idea di questo testo che parlava della stella più bella che c'è, insomma, non vedo altra cantante possa cantare una cosa del genere. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere d'accordo, prova ad ascoltare un po' di più. Nel 2001, Irene Grandi si esibisce proprio prima di Vasco, davanti alle 100.000 persone dell'Heineken Jamming Festival di Imola, accolta con entusiasmo straripante. Vasco Rossi e Gaetano Curreri scrivono per lei inoltre Prima di partire per un lungo viaggio, che Irene Grandi canta in occasione del concertone del 1 maggio a Roma del 2003. La coppia Vasco Curreri firma anche la produzione di altre due canzoni, Buon compleanno e Voglio una ninna nanna, incise dalla Grandi nel quinto album di inediti Prima di partire. Irene è protagonista di un tour strabiliante. Il debutto avviene il 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano, proprio come ospite speciale del live dell'amico Vasco. Nel 2005 Irene torna sul palco del concertone del 1 maggio a Roma con il nuovo singolo Lasciala andare, che anticipa l'uscita del sesto album Indelebile. La sua anima rock, la sua svolta e il suo successo sono il sigillo evidente dello straordinario talento e dell'eccezionale intuito di un grande artista come Vasco Rossi, l'uomo che ha davvero cambiato il lato rock della musica italiana. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai.